prima, seconda, terza qualità. Pasta nera, pulessa, almeno, gnà. Prima, seconda, terza qualità. Pasta nera, pulessa, almeno, gnà. Prima, seconda, terza qualità. Pasta nera, pulessa, almeno, gnà. Chi lo vai a raccontare? Chi lo vai a raccontare? Fatica, fatica, non mangia mai. Fatica, fatica, non mangia mai. Prima, seconda, terza qualità. Pasta nera, pulisce, almeno, magna. Prima, seconda, terza qualità. Pasta nera, pulisce, almeno, magna. Prima, seconda, terza qualità. Pasta nera, pulisce, almeno, magna. Oh, chi lo va a raccontare? Oh, chi lo va a raccontare? Fatica, fatica, non mangia mai. Fatica, fatica, non mangia mai. Fatica, fatica, non mangia mai. Prima, seconda, terza qualità.